coppia. Miti e verità dello sport. Di Dario Ricci. Una ragazza può giocare a calcio. Sei matta? Ma che cosa ti prende? Ti criticano tutti. È un suicidio socialmente parlando. Ehi, Gracie, guarda che non ti aspetto per sempre. È più difficile perché sei una ragazza. Non hai abbastanza grinta. Ti schiacceranno. Ho grinta da vendere. Voglio che mi alleni come Johnny. Gracie vuole giocare a calcio. Non c'è una squadra femminile. Per questo si allena con quella maschile. Se vuoi giocare con noi devi essere più brava dei maschi. Non è male. Ho visto di meglio. Hai sbagliato sport, bellezza. Non pensavi che ci sarei riuscita, vero? Passa la palla! Te l'ho detto, devi rinunciare. Se non ce la fai, fermati, ma gli altri non devono decidere per te. Entra in campo e fagli vedere chi sei. Dimostra che non c'è differenza. È difficile per una ragazza farsi largo nel mondo del calcio, come avete sentito nel trailer di Il mio sogno più grande, film che qualche anno fa raccontava proprio le sorprendenti prodezze di una talentuosa baby calciatrice in un football maschilista e conservatore. Storia davvero simile a quanto avviene nella realtà, come ben sa la nostra prima ospite di oggi. Raffaella Manieri, benvenuta a Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, ciao a tutti. Chi è Raffaella Manieri? Voglio darvi un piccolo aiutino. Sentite un po' quest'inno. Raffaella, come si dice in tedesco, campione di Germania? Deutschmeister. Pronuncia perfetta e complimenti, perché Raffaella Manieri, 28 anni, difensore centrale, è fresca di titolo di campionessa di Germania, conquistata con la maglia più prestigiosa, quella del Bayern Monaco, di cui abbiamo appunto sentito l'inno. E la cosa più bella, forse, Raffaella, è che avete festeggiato la vittoria insieme al Bayern Monaco degli uomini, cioè quello di Neuer, Robben e di Mister Pep Guardiola. Ma sicuramente è stato molto bello comunque essere festeggiati insieme a loro, insieme alla città che ha riconosciuto comunque il merito di due squadre che hanno lottato tutto un anno per poi portarsi a casa lo scudetto. Ecco Raffaella, raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori come sei arrivata a diventare titolare del Bayern Monaco. Tu che prima di emigrare in Germania avevi vinto tutto quello che c'era da vincere in Italia, giusto? Sì, io gli ultimi anni li ho giocati a Sassari nella Torres, in cui abbiamo vinto 4 scudetti consecutivi, e penso che sia stato veramente, siano state delle annate speciali. Comunque non è facile riconfermarsi e non è facile vincere 4 scudetti consecutivi. Il fatto è che poi mi sono accorta che quando giocavamo in Champions, la competizione europea, arrivavamo sempre tra i primi 8 e poi c'era questo grandissimo dislivello che non dipendeva da noi, ecco, dipende da un movimento intero. Quindi la mia scelta è stata quella di approfittare la visibilità di un europeo che avevamo giocato in Svezia 4 anni fa, e dopodiché sperai in una chiamata, e così è stato. Grazie anche a due persone che mi sono state molto vicine, sono riuscita a rendermi visibile, e fare un provino e poi essere confermata, ecco. Una bella differenza, immagino, tra il mondo del calcio femminile italiano e quello tedesco, o più in generale quello straniero, vero? È totalmente diverso, ecco. Comunque noi siamo affiancati a loro, ovviamente lo sport è al massimo livello, siamo professioniste, con tutto ciò che ne concerne, quindi noi qua in Italia purtroppo siamo rimaste noi in Italia e la Grecia a livello femminile molto indietro. Sinceramente da italiana comunque è una cosa che mi dispiace, perché vivere un'emozione così in Germania, poi tornare in Italia, sicuramente vivere talmente un altro tipo di emozioni, sai, comunque fa un certo effetto. Spero che possa semplicemente aiutare a dar più visibilità e a creare anche qua in Italia un contesto in cui possiamo diventare professioniste, ecco. Anche perché lo status dilettantistico condiziona le donne calciatrici sotto tanti aspetti. Basti immaginare ad esempio le difficoltà nel programmare la carriera o magari la maternità. voglio dire, nel momento in cui uno è professionista e può mantenersi e può magari anche un anno solo dedicarsi a, come dici tu, a decidere poi di avere comunque sia un bimbo o di prendere per il momento di fare una scelta, non è possibile perché tu non te lo puoi permettere né a livello economico e quindi è difficile, ecco, ci sono delle discriminazioni alla base. Io nel senso, comunque se nella mia vita, se devo fare una scelta, ho dovuto sempre scegliere per continuare a giocare, non posso scegliere di fermarmi un anno, perché per me significherebbe comunque sia finire, ecco, non abbiamo questa opportunità, come mentre in America ci sono tante mamme che sono in nazionale già con dei bimbi che vengono agevolate, quindi hanno la possibilità di portare il bimbi di tiro, di portare i mariti, cioè stiamo parlando di cose veramente che sembra dell'altro mondo, no? Dico io, però alla fine è così, noi siamo veramente indietro, cioè non... E poi la difficoltà comunque io, nel senso, soffriamo, no? Perché quando poi le vedi che vedi delle stesse ragazze come te o delle donne come te che hanno delle opportunità diverse, allora lì un po' ti viene lacrimuccia, no? Dici cavoli, però farebbe piacere anche a me poter avere le stesse opportunità, è semplicemente questo, non si chiede nient'altro, di avere le stesse opportunità. E senti, le tue compagne in Germania sanno delle difficoltà del nostro movimento femminile qui in Italia? Il bello è che anche all'estero sono a conoscenza di questa situazione, quindi vorrebbe aiutarci, ma anche loro non sanno come fare. Più di prelevarci magari dal nostro campionato non possono fare, ecco. Io meno male vivo due contesti diversi, quindi loro se ne accorgono, capiscono la difficoltà e non riescono a capire come mai comunque sia non si riesca a sviluppare questo settore femminile, dove effettivamente ci sono veramente tantissime ragazze brave e molti talenti, ma vengono sprecati e vengono sciupati perché una ragazza a un certo punto deve decidere se lavorare, se studiare o se fare sport, ma il problema è che lo sport non ti porta a casa niente a questo livello, essendo dilettante tu non ti puoi permettere di fare solo la sportiva. Immagino che ti abbiano ferito le parole che hanno portato alle dimissioni dell'ex presidente della Lega Dilettanti Felice Belloli, che aveva definito le calciatrici italiane quattro lesbiche non meritevoli dei fondi federali. Ecco, cosa hai pensato quando hai sentito quelle parole? Ma io sinceramente la prima cosa che ho pensato è detto una persona sofferente, perché a prescindere dal contesto, da tutto, io penso che a me mi hanno insegnato che quando una persona critica si sta guardando allo specchio, ecco, quindi... Non penso che abbia qualche problema lui in famiglia sua, non so, io non entro in merito e esco da queste dichiarazioni ovviamente perché non, questo è proprio, fa capire quanto siamo indietro, ecco. Se la persona che ti deve rappresentare fa un'esternazione di questo genere vuol dire che c'è un'ignoranza alla base, penso. Alle sortite di certi personaggi poi si aggiunge anche l'educazione familiare, vero? Molti blocchi arrivano proprio dai genitori perché dicono che il calcio è uno sport da maschi, cioè è un concetto secondo me alla base sbagliato, perché ci sono tante ragazze che io ho visto che crescono e vogliono giocare a calcio ma non possono perché i genitori non vogliono. Questa è una cosa bruttissima che mi è capitato di vivere di persona, non per quanto riguarda me perché sono stato fortunato, ho sempre avuto l'appoggio dei miei genitori, eppure ero la prima ragazzina che giocava nella mia città e invece molte ragazzine mi sono venute a me a chiedermi cosa devo fare, come faccio, una mamma non vuole, ma io voglio giocare, non so cosa rispondere, mi trovo in difficoltà e è veramente brutto, no? Ecco, voglio dire. A sentirti parlare, Raffaella, mi sembra che non ti rivedremo presto in Italia nel nostro calcio. No, beh, sarebbe sempre bello tornare a casa, nel senso che ovviamente se avessi avuto l'opportunità di giocare, non lo so, in una Juventus o in un altro tipo di squadra, sarei rimasto in Italia, voglio dire, non c'è ombra di dubbio. Quindi nel momento in cui adesso vengono attuati questi nuovi progetti e si riesca ad avere uno sviluppo del calcio femminile, perché no, poter riportare la mia esperienza e perché no, poter aiutare comunque questo paese a crescere. Questo sicuramente non mai dire mai. In questo momento ovviamente rimango là dove posso imparare, ecco, semplicemente perché posso imparare, però un domani perché no, certo. Siamo in chiusura, confessami un segreto, dai, quali sono i tuoi miti del calcio? Sei un difensore, quindi immagino Nesta o Maldini. Da difensore no, c'è Pirlo. Diciamo che io sono nata come attaccante, quindi poi nella mia carriera sono passata dietro, però mi è sempre rimasto, mi piace dribblare, mi piace, ovviamente in difesa lo posso fare meno, però mi piace tirare in porta, mi piace fare gol, insomma. Io sempre, i miei idoli sono sempre stati Zidane, per l'eleganza che aveva nel tocco della palla, poi Del Piero e infine Pirlo, ecco. Questi sono i miei esempi di uomini sportivi, io li chiamo uomini, ecco, perché sono veramente uomini anche nella vita, penso, quindi è un esempio che danno positivo di come si fa sport in generale. E allora Raffaella Manieri, complimenti per il campionato appena vinto, in bocca al lupo per il proseguo della tua avventura in Bundesliga con la prestigiosa maglia del Bayern Monaco e grazie soprattutto per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te Dario, grazie a tutti. Davvero bello chiacchierare con Raffaella Manieri, campionessa di Germania. Ora qualche istante di pausa, poi vi aspetto di nuovo qui a Olimpia. Olimpia, miti e verità dello sport. Qualcuno lo chiama Sirenetto, qualcun altro Sincronetto, altri ancora il Beato fra le donne. Quel che è certo è che Giorgio Minisini, 19 anni dalla Dispoli, in provincia di Roma, è un atleta che sta cambiando i confini del nostro sport. Perché Minisini è, appunto, il primo atleta uomo a far parte della nazionale azzurra di nuoto sincronizzato, fino ad oggi sport esclusivamente femminile. Una piccola, grande rivoluzione. E allora Giorgio Minisini, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Ciao, grazie mille per l'invito, è un piacere. Allora Giorgio, entriamo subito in acqua, raccontaci un po' come nasce questa passione davvero particolare, insomma. Sì, per me sarà un onore essere il primo uomo a rappresentare l'Italia, perché in realtà in questo sport c'è stato movimento, infatti io ho iniziato solo dopo che iniziò mio fratello, che ha 2 anni più di me, e solo dopo aver visto Bill May nuotare a Roma Sincro nel 2000. Quindi diciamo che prima di me ci sono stati altri, però per me è un onore essere il primo a rappresentare l'Italia, perché è un sogno che si realizza dopo 13 anni di sacrifici. Eh sì, sarà il primo in acqua in un campionato mondiale, no? Perché ai prossimi mondiali di Kazan in Russia finalmente il nuoto sincronizzato misto viene sdoganato, di fatto entra nel programma ufficiale, giusto? Sì sì, questa infatti sarà una grandissima occasione sia per il nuoto sincronizzato misto, ma proprio per il nuoto sincronizzato in sé come sport, perché è una grande occasione per tutti. Tu vieni da una famiglia che col nuoto sincronizzato ha parecchio a che fare, no? Cioè, per questo nasce un po' questa passione, perché se non sbaglio i tuoi genitori a bordo vasca e in acqua hanno fatto delle bellissime carriere. Sì, mia madre è stata una delle prime atlete nazionali d'Italia che ha fatto i mondiali, ha allenato atlete olimpiche, quindi di grande rilevanza qui in Italia. Mio padre invece è giudice internazionale, partecipò come giudice anche alle pre-olimpiadi di Pechino nel 2008, quindi diciamo che tutta la famiglia è dentro questo mondo, quindi per me dopo aver visto Bill May e dopo aver visto mio fratello iniziare a nuotare è stato facile entrare in acqua. C'era un periodo in cui tutta la famiglia era immersa in questo mondo, perché nuotavamo sia io, mio fratello e mia sorella. Mia madre allenava e mio padre ci giudicava, quindi era un affare di famiglia. Infatti, senti, ma di solito, insomma, vedendoti anche fisicamente, potresti essere anche un buonissimo nuotatore, no? Diciamo così, immagino che la domanda te la sia posta a un certo punto, se scegliere il più tradizionale nuoto in piscina o continuare su questa via davvero innovativa del sincronizzato. Guarda, il nuoto nella preparazione nostra atletica anche una buona parte, ha una buona importanza. Facendo spesso nuoto ho capito che e non, forse non ce la farei, ma per la monotonia a me piace tanto variare nel sincronizzato, ci sono tanti diversi esercizi, c'è tanta varietà, e non sono uno a cui piace fare sempre la stessa cosa, quindi forse non avrei la testa di fare sempre le stesse vasche avanti indietro. Ti chiedo, dal punto di vista tecnico, il tuo ingresso in acqua insieme a quello degli uomini, no, tout court, nel nuoto sincronizzato, cambia molto questo sport, forse permette anche alle ragazze di essere un po' più femminili, no? Spesso le ragazze erano un po' costrette, senza di voi uomini in acqua, a interpretare ruoli, figure, posizioni davvero molto difficili dal punto di vista fisico. Sì, guarda, il sincronizzato diciamo che è uno sport molto complesso, gli inglesi direbbero it's a mess, è un casino perché ci sono tante cose da fare, lavori di potenza, di flessibilità, quindi è per quello che noi ci alleniamo così tanto, perché ci sono tantissime cose da fare e anche nel doppio misto, oltre a tutti i lavori di tecnica, di potenza, flessibilità, c'è anche il lavoro artistico, la donna che deve essere donna, l'uomo che deve essere uomo, quindi sicuramente da quel punto di vista ci sono grandi possibilità, artisticamente il gioco uomo-donna si può sviluppare molto bene, ma non si deve perdere la tecnica, quindi diciamo che ogni giorno devi lavorare su uno dei tanti aspetti senza perdere tutti quelli che accessori che ci sono attorno, quindi abbiamo cercato di fare quello nei nostri doppi. Ti chiedo anche da questo punto di vista come si sviluppa la tua giornata, quante ore ti alleni, se ti alleni anche individualmente o se comunque è necessario comunque una quota di lavoro in coppia che penso sia ineludibile, insomma. Guarda, sì, penso che almeno il 90%, 95% del tempo del lavoro lo devi fare in coppia perché giustamente insieme andrei a fare la gara. Però stiamo progettando anche di fare io personalmente alcuni lavori specifici per recuperare quelle che sono le mie carenze rispetto ovviamente ad atlete nazionali di quella taratura, quindi tutto il lato della flessibilità articolare, della mobilità, della scioltezza. In realtà in nazionale noi ci alleniamo la mattina 5 ore e il pomeriggio dalle 3 ore e mezza alle 4 ore, più tutti i lavori accessori della palestra, di quella che può essere una plena, che può essere un teatro, quindi diciamo che la vita in piscina, vedi, va in piscina una decina, 12 ore, torni a casa e dormi perché è finita lì. Senti, ti chiedo ancora, tanti pregiudizi maschili su voi sincronetti, no? E possiamo immaginarli di ogni tipo, l'omosessualità, ma che ci sta a fare questo in piscina, eccetera, eccetera. Però ti chiedo, quando hai cominciato l'attività, c'è stato anche qualche pregiudizio da parte delle donne, delle atlete che già erano in vasca e che magari legittimamente potevano chiedersi, ma questo che vuole qua in mezzo a noi? In tutte le squadre in cui ho nuotato, no, nel senso le mie compagnie di squadra non c'è mai stato nulla di questo genere. Capitava che magari in squadre diverse, avversarie, in cui magari stavi anche in lotta, quindi ti giocavi la medaglia, qualcuna magari rimaneva incuriosita oppure provava proprio diciamo il gioco psicologico, però io ho capito da solo che i pregiudizi vengono solo dall'ignoranza, perché chiunque mi conosce, chiunque sa quello che faccio, non ne ha, spesso non ne ha, quindi io li combatto solo dimostrando quel che stanno facendo lo sport che credo, sapendo che non c'è nulla di vero nei pregiudizi della gente, anche perché non hanno un fondamento logico assolutamente. Senti, facciamo finta che la tua fidanzata, che tra l'altro se non sbaglio è anche lei una sincronetta, non ci stia sentendo, ma confessacelo, nel nuoto sincronizzato si rimorchia pure, insomma, perché un bel ragazzo come te, tutto sommato, in un ambiente che gli uomini gli aspettava da un po'. Guarda, io forse sono abbastanza tranquillo, diciamo che ho trovato lei e ho con lei perché ci sto bene, se fossi stato forse un Casanova, un po' più uno che ci gioca un po' di più su queste cose, forse avrei sfruttato, diciamo, il modello in questo le ha sfruttate, forse alcuni penserebbero meglio di me, però io io sto benissimo con la mia donna e non cambierei per nulla. Bravo, hai dato la risposta che ti ha messo al riparo dagli strali della tua fidanzata. Senti, scherzando ancora, o meglio, chiede, tornando per un attimo seri, ma secondo te nel futuro di questo sport ci sarà spazio, si arriverà ad una squadra, delle squadre, ad una nazionale solamente maschile? Secondo te ci si potrà arrivare, oppure proprio nella natura del sincronizzato è fondere un po' le due anime come avviene in tanti altri sport? C'è quella maschile e quella femminile. Secondo me il mio pensiero è che se il doppio misto è un'evoluzione rispetto al doppio solo femminile, una squadra solo maschile non sarebbe un'evoluzione, sarebbe un tornare indietro, solo cambiare sesso, però ci sarebbe sempre lo squilibrio. Secondo me questo sport è uno sport che deve essere misto. Il maschio nel modo sincronizzato sia con un uomo e una donna insieme, perché il rapporto uomo-donna è il rapporto artisticamente più bello in acqua e fuori, quindi secondo me il modo sincronizzato è uno sport che nella sua massima evoluzione è misto, anche perché è uno dei pochi sport in cui può esistere lo sport misto, perché nei 100 metri piani di atletica sarebbe molto difficile, ci sono palesi differenze fisiche, invece il nuoto sincronizzato può essere uno sport misto perché non ci sono effettivi e reali vantaggi e svantaggi tra i due sessi, quindi secondo me è la massima evoluzione che può avere. Beh, davvero bello questa immagine che ci consegni dell'acqua che ci aiuta a fonderci, no? tra i due sessi e ad essere un tutt'uno armonico e spettacolare. Allora, Giorgio Minisini, grazie per essere stato oggi nostro ospite qui a Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, è stato un piacere. Anche per l'appuntamento odierno di Olimpia è tutto, un grazie a Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast sulla nostra pagina web, sul sito radio24.it e scriverci a olimpia@radio24.it. Ora spazio come sempre a tutti i convocati weekend. Olimpia torna domenica prossima sempre alle 16:30. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.